adesso lasciamo così questa parte di dialogo a distanza con gli ascoltatori, perché vogliamo occuparci, beh, in fondo di un tema collaterale a quello del concerto che stiamo ascoltando, no? Abbiamo visto come la maggior parte di questi autori ha fatto conoscere la musica italiana nel mondo, e il veicolo principale di conoscenza della musica italiana in Europa tra il 600 e il 700 sicuramente è stato il melodramma, è stata l'opera, un genere nuovo per la cultura europea che si è affermato in maniera impetuosa in questi secoli, e soprattutto sono stati i musicisti italiani che dappertutto, fino appunto nelle nazioni più lontane, hanno portato l'opera italiana. Non sempre, non dappertutto, naturalmente il radicamento dell'opera italiana è stato semplice, diciamo, e non privo di problemi. Per esempio in Francia, a cui è dedicato un libro pubblicato dalla casa editrice Edit, che si intitola appunto L'opera italiana in Francia nel Settecento, il viaggio di un'idea di teatro. L'hanno scritto due autori, Andrea Fabiano e Michel Noiret, che sono con noi questa sera e li ringrazio. Intanto allora Andrea Fabiano, buonasera. Buonasera. Andrea Fabiano è docente di letteratura e cultura italiana all'Università Paris-Sorbonne e appunto si occupa di questo problema particolare della drammaturgia italiana nelle varie epoche. Poi dopo capiremo anche meglio quali sono i rapporti appunto tra queste due nazioni e le loro scuole, naturalmente. Ed è con noi anche Michel Noiret, buonasera anche a lei. Che è ricercatore all'Istituto di Ricerca sul Patrimonio Musicale in Francia del CNRS. E quindi possiamo cominciare a affrontare un po' questo tema, che è un tema, devo dire, molto vasto, naturalmente, perché l'opera italiana in Francia ha avuto delle vicende alterne che forse adesso ci riassumerete, però vorrei che forse prima, non so se Fabiano o Noiret volessero introdurre un attimo questo tipo di lavoro che avete fatto, un lavoro particolare perché è un libro scritto a quattro mani, quindi come mai a quattro mani e qual è il senso, diciamo, di questa vostra collaborazione? Non so chi voglia rispondere su questo. Allora comincio io, Michel Noiret, io che si sentirà dal mio accento. Dall'accento, certo. Dunque, quello che è successo è che ho portato a termine un lavoro sull'opera italiana in Francia nel Settecento, proprio al momento in cui è arrivato a Parigi un giovane ricercatore italiano che era Andrea Fabiano, che ha fatto una tesi che ha dimostrato risultati nuovi nei riguardi della mia propria ricerca. Dunque il mio articolo si è trovato un po' sorpassato dal lavoro di Andrea Fabiano e ho pensato che l'idea più giusta e più comoda era di giungere le nostre forze e di fare questo libro in comune. Benissimo, allora adesso abbiamo capito qual è stato il percorso dell'origine di questo libro, appunto, che tratta dell'opera italiana in Francia nel Settecento. Allora con Andrea Fabiano possiamo addentrarci un po' in questo tema, perché forse il rapporto con la Francia è quello più problematico, insomma, in tutta la diffusione dell'opera italiana, perché a differenza forse di tutte le altre principali nazioni europee, dall'Inghilterra, la Germania, la Spagna, eccetera, la Francia aveva una sua tradizione di teatro musicale piuttosto robusta, insomma, quando nelle altre nazioni invece si espandeva l'opera italiana in maniera così impetuosa. E quindi cosa è successo, Andrea Fabiano? In effetti, se vuole, il primo contatto con l'opera italiana, che è avvenuto nel corso del 600 per un'occasione di cerimonia estremamente particolare, vale a dire le nozze di Luigi XIV del Re Sole, in quel momento che i francesi hanno conosciuto questo nuovo genere teatrale, musicale nel corso del 600, e a quel momento lì che si sono in qualche modo ribellati di fronte a questa novità italiana, dicendo: ma come noi che siamo superiori a tutti nell'ambito delle arti, in particolar modo del teatro, con i nostri Racine e Corneille, per quale motivo non possiamo fare meglio degli italiani anche nell'ambito del teatro musicale? E da lì è nata questo percorso totalmente autonomo, o parzialmente autonomo, ma autonomo in ogni caso nella mentalità francese rispetto agli italiani. E quindi per far nascere con vigore un genere autoctono hanno chiuso le frontiere all'opera italiana fino alla metà del Settecento. Ecco, Michel Noiret, ma questa chiusura era così ermetica oppure c'erano delle fessure attraverso cui la musica italiana poteva passare? Poteva passare tramite concerti privati, tramite edizioni di musica e passaggi di artisti italiani, di cantanti o anche di violinisti, che potevano fare sentire ai francesi lo stile italiano. Dunque questa chiusura e il fatto di maggioranza, il fatto primario, e poi c'erano mezzi di circolazione in pratica che hanno abituato i francesi alla musica italiana, ma in un modo un po' sotterraneo. E del resto forse dobbiamo ricordare che il padre, insomma, anche del teatro musicale francese, Lully, che era un italiano, veniva da Firenze, insomma, si chiamava Lully, e quindi il legame, come dire, è sempre una storia di cugini che si amano e si odiano in un certo senso. Forse da lì anche il vostro libro parte appunto dalla figura di Lully, perché è stato poi il grande organizzatore della musica francese alla corte di Re Sole, Michel Noiret. Poi questa organizzazione è rimasta, è quello che ci colpisce molto, perché le istituzioni possono cambiare, mentre le istituzioni dell'ancien régime francese non sono cambiate. E quello ha portato alla rivoluzione, come tutti sappiamo, ma questa rivoluzione, il fatto che ci è dovuta stare una rivoluzione, e anche il sintomo di altri bloccaggi nel sistema dell'ancien régime, che hanno anche avuto effetti molto interessanti attorno alla musica italiana. Dunque, per esempio, il fatto che il Théâtre de Monsieur, cioè il primo teatro d'opera italiana in Francia, si sia aperto nell'anno della rivoluzione, nell'anno 1789, è un fatto culturale molto interessante che cerchiamo di spiegare nel nostro libro. Certo. Andrea Fabiano, però l'opera italiana riesce a fare breccia, insomma, in questo mondo, in questo habitat piuttosto ostile, in fondo come era successo anche nel teatro, cioè passando dalla commedia, passando dal linguaggio comico. Sì, in effetti il grande repertorio dell'Académie Royale de Musique, appunto l'opera che nel Seicento era gestita a fine Seicento da Lully e poi che continua nella sua tradizione, come Michel Noiret diceva, nel corso del Settecento, aveva un repertorio quasi esclusivamente serio, quindi della tragedia in musica, tragedia lirica, dei balletti seri. Mancava completamente un repertorio comico-musicale che era marginalizzato nei teatri della Fiera, i famosi Théâtre de la Foire, che si aprivano due volte all'anno. E quindi il primo contatto vero e proprio con una rappresentazione di opera italiana nella Francia del Settecento è appunto dovuto all'assunzione da parte dell'Académie Royale de Musique di una compagnia itinerante di cantanti buffi, guidata appunto da Eustachio Bambini, che era impresario anche in Italia, prima di viaggiare verso Bruxelles e poi arrivare a Parigi. Ecco, poi c'è il famoso episodio dell'intermezzo di Pergolesi, no? La serva padrona. Sì, appunto in questa occasione, appunto con l'arrivo della compagnia di Bambini, che viene rappresentata nel teatro dell'Opera, la serva padrona di Pergolesi insieme a un'altra decina di intermezzi di opere buffe, e lì questo impatto con una realtà musicale totalmente diversa rispetto a quella francese crea, provoca, alimenta un dibattito estetico che tradizionalmente viene chiamato querelle des buffons, dove i buffoni sono appunto gli italiani, i cantanti italiani. Certo, Michel Noiré, poi c'è una seconda polemica qualche anno dopo, credo più pericolosa, insomma, credo più profonda anche, scatenata dalle osservazioni di Rousseau sulla lingua, in particolare sulla lingua più adatta al canto, come diceva Rousseau. Forse quello era già il sintomo di sommovimenti culturali più profondi che poi sfoceranno nella rivoluzione? Sì, è anche una delle ragioni del parziale rifiuto della musica italiana è il fatto che i francesi hanno una lingua abbastanza speciale in paragone con altre lingue europee, perché non è accentuata come l'italiano, il tedesco o l'inglese, e perciò i francesi hanno costituito uno stile molto particolare che di cui l'esempio più famoso è Rameau, e la musica di Rameau non potrebbe essere composta con parole italiane. Dunque è vero che la querelle è scoppiata attorno al problema della lingua francese, ma come tutti sappiamo la lingua francese è rimasta tale anche fino a Pelléas et Mélisande, che non potrebbe essere un'opera italiana per quelle ragioni. Anche il teatro francese, no? Il verso alessandrino, quello usato dalla grande tragedie lyrique, è un verso che ha un suo ritmo interno molto forte, mi pare, e che quindi determina in un certo senso anche la musicalità della messa in musica. Scusa. Sì, ma anche che è un problema per i compositori, perché l'alessandrino ha un ritmo abbastanza fisso che può anche provocare una certa noia se si osserva il ritmo tutto il tempo, mentre i ritmi della poesia italiana sono più vari e inducono una forma di musica che ai compositori è più facile. Ma gli italiani che sono venuti in Francia nel Settecento, e di cui forse diremmo anche una parola, per esempio Piccinni o Sacchini o Cherubini, questi compositori italiani si sono adattati in un modo perfetto allo stile e alla lingua francese con le sue particolarità. Andrea Fabiano, poi c'è il grande, il grande caso di Gluck, che ha il suo periodo francese e immagino che la sua riforma teatrale tocchi anche l'opera in Francia. Sì, certo, Gluck è un caso estremamente interessante per la sua formazione e esperienza italiana da un lato e francese alla corte di Vienna, dove appunto tramite la riforma introdotta dal conte genovese Giacomo Durazzo, responsabile dei teatri di corte di Vienna, può già esercitarsi nella messa in musica, nell'intonazione di opera comique. Gluck arriva in Francia protetto da Maria Antonietta, quindi è un altro aspetto di questa politica dell'Ancien Régime che determina poi delle ricadute profonde nel campo artistico e musicale. E invitato appunto da Marie Antoinette cerca di applicare quelle idee di riforma sperimentata a Vienna anche nel campo operistico francese, travestendo in qualche modo aspetti italiani, una drammaturgia interamente francese invece. Michel Noiré, il vostro libro, che pure diciamo una raccolta piuttosto agile perché sono un centinaio di pagine all'incirca, ha anche il pregio di raccontare tutto questo in maniera non accademica, diciamo non attenta soprattutto alla, come dire, al linguaggio, alla comunicazione musicologica, scientifica, più seria, ma cerca di portare tutto anche con un tono narrativo, insomma, di racconto. Questo mi pare una cosa, uno sforzo che voi avete fatto in maniera particolare. Questo, sono felice che lei abbia risentito il libro in questo modo, perché è quello che si è tentato di fare nell'ambito della storia dell'opera italiana che fu pubblicata dal nostro editore, EDT, Edizioni di Torino, qualche anno fa, che aveva un doppio scopo di accontentare i musicologi più specializzati, ma anche di presentare un pubblico un po' più largo, il più largo possibile, una spiegazione di fenomeni culturali abbastanza complessi, ma in una forma al più possibile facile da leggere, con citazioni che ci danno anche un po' il profumo del periodo. In effetti l'obiettivo era quello di sintetizzare delle informazioni di carattere estetico e drammaturgico, ma anche una storia materiale del teatro, delle istituzioni, dei cantanti, dei musicisti che viaggiano attraverso l'Europa e in particolar modo nella Francia, portando appunto un'idea di teatro diversa rispetto a quella francese. E tuttavia ricordiamo che in appendice c'è anche una cronologia degli allestimenti di opere italiane a Parigi e a corte nel Settecento, che è utilissima perché è appunto un lavoro di compilazione molto, diciamo, molto, molto attento, molto preciso, e quindi anche di interesse, come dire, per gli studiosi, naturalmente, oltre a questo aspetto più divulgativo che si metteva in luce. Ma Andrea Fabiano, vogliamo chiudere forse raccontando qualcosa del momento forse più interessante sotto certi aspetti, anche meno conosciuto sotto altri aspetti, ovvero la presenza dei musicisti italiani, degli operisti italiani, dei commedianti musicali italiani nella Parigi rivoluzionaria, insomma, in questi anni che dal 1700... mi spiace, non riusciamo a concludere il discorso perché il segnale dell'Euroradio mi dice che siamo ritornati in collegamento con Montpellier, quindi vorrei ringraziare Andrea Fabiano e Michel Noiré, grazie, buona serata. E abbiamo parlato del loro libro, L'opera italiana in Francia nel Settecento, il viaggio di un'idea di teatro, pubblicato dall'editore EDT.